cani tra le mani, la vita raccontata nei brani, un altro pasto per i cani, ho pensieri strani mentre cerco la mia ombra tra i viali. Dio perdonami, un posto per gli animi smarriti, Dio consolami. In questo chiasso ci perdiamo entrambi, resta difficile distinguere i cattivi e i santi, la verità è che recitiamo entrambi le parti e tu corri a salvarmi solo quando è troppo tardi. Lo so solo io, grandi quanto i nostri margini, siamo fragili ma siamo fiumi e ci scontriamo con gli argini. Tu dov'eri quando non splendeva il sole, notti insonni e malumore, la luna la sola testimone. Dov'eri quando avevo l'ansia per gli esami, del capo giocava il mio domani in un tiro di dadi, e la sera registravo brani sempre più amari. Fate presto a dirvi bravi dagli spalti, che sporcarvi, non ti confondere, non sai nulla di me, della mia vita e la mia bio, tutto questo è mio. Alla luna, chiedi alla luna, chiedi alla luna.